fulmina più, tanto c'è lì l'olio dell'accendino. Capito? Ha funzionato tre volte, cioè sono, è una panina grossa e ci va benissimo. Sta a casa sua, sta. Esatto, questo qui ci vuole la lampadina delle smette perché è al buio, poi ci sono quegli, diciamo, LPG da controllarmi e da mettere in funzione e poi niente, poi quando sei qui, casomai se c'è qualche altra cosettina te la faccio vedere, boh. Cosa stavo dicendo? E con lo stereo, ne hai cavato piedi? No, lo stereo non l'ho ancora fatto. Ho fatto funzionare l'altro che mi ha dato su il sabato, lo ricordi? E l'ho fatto accendere, si illumina, adesso devo pulirli, cambiare le cinghette delle cassette e le cose del CD. E poi faccio il tuo subito. Ah, va bene, sono contento per te. Babbo, quando sei disponibile mi dai un fischio e vengo a prenderti, o se vuoi scendi col tram, non lo so, vedi tu. E vabbè, non c'è problema, per quella. La dita che attacco la esterna, l'altra, e non ti arriverei mai. All'altro parte, così me ne controlla, questa antenna all'altra, se c'è differenza, aspetta. I controlli non te li posso dare, io ti posso dire se la radio è buona o cattiva, perché qui non c'è smitta, non vedo nulla. D'accordo, va bene. E allora Mario? Dimmi. Ma se te l'ancora portate quella cosa, mio, mi sa che te la porto domani pomeriggio, ti trovo qualcuno a casa, Mario. Se tu mi dici che viene, io dico a mio figlio che posso trovare a casa e così la dare a lui, perché io sicuramente sto lavorando. Ah, positivo. Vabbè, se è, dico, conferma... No, dovrei scendere verso, diciamo, le 8:05, dai. Ah, di mattina? O di pomeriggio, ti trovo? Sì, a quell'ora ci sono io. Tranquillo, io dopo le 6 sono a casa. Positivo, dai. Allora te lo porto domani, dai. Guarda un po', cambiato qualcosa, le immagini di modulazione molto più forte sono, beh. Buongiorno alla notte, Brucchio, questo ha cambiato totalmente. Sono con una tenda grande. E andrà bene. Ho fatto il miscuglio, ma già funziona benissimo. Gaffa. Sto con chi muro adesso? Mi sto portando col tornado. Adesso uso questo, tanto i pulmini sono passati e quindi modulato. Non mi vedo bene, no, con uno stile centrale di macchina. Ci metto un tappo di plastica domani. Mi faccio questa modifica così almeno evito... Le cose appuntano che piacciono molto, eh. Beh, con le pulmine già lo sai come funge. Mario, è appunto per quello, beh. Ti prende qualche. Mario, ti ascolti? Ascolti con l'antenna dell'ABM, no? Io ti ascolto così. Così sì, ma guarda con l'altra antenna della BM che ho detto a casa, se mi ascolti, guarda, adesso faccio passaggio. Mario, mi senti con l'altro, vedi? No, poco fa non ti ho sentito, adesso ti sento. No, guarda, ecco, stavo provando l'altro però con l'antenna di casa, oppure mi sente, però magari non arrivo giù, ce l'ho dentro casa comunque. Vabbè, oggi c'è anche molto QRM, eh? Positivo. Comunque ti arrivo bene a casa tua. Così sei alla grande. Pagato, oggi ho il proxel normale. Adesso dovrei ordinarmi il proxel preapprezzato e poi vediamo un po'. Paga, va bene, là. Sono contento che adesso c'è di nuovo un ubico e che ti funge bene. cancella perché vedi questo c'ha il frequenzimetro, ti segna la frequenza che tu fai, già ce l'hai, ce l'hai uguale al mio, così che no, già va bene, vedo che sta spingendo bene. Gappa, gli apparati funzionano tutti bene, basta avere una buona antenna e vai alla grande. Sto ascoltando con l'altro apparato, già sto facendo bene. Ehi, poco fa avete parlato in due, però non ho capito una mazza. Ciao Domenico, ben sentito anche a te, in compagnia di Mario Mansell e di Pomponio. Ti saluto Domenico e ti rilancio a Mario, vai. Ciao Domenico, e buon inizio di trabacco. Buonasera Mario, con Lazio mi avevo riconosciuta. Chi è? A Pomponio. E tante cosce belle a tutti, eh? Ciao Domenico, saluto, ben sentito, ben esatto. Domenico. Ehi, perché non mi ascolti a me? Ehi, ti ascolto, però non ti riconosco dalla modulazione che sei. Marchetto sono col mobico. Mamma mia, Marchetto. È brutta. Brutta, fa schifo, ho fatto l'altra, fa schifo. È bellina, dai. No, niente. Confronto all'altro, ti do tre. Io ti do tre, confronto all'altro. Ormai stiamo parlando ieri notte, io ti do tre. Ah, bene, cambia apparato allora, dai. C'è stato sentito con l'altro, c'è un qui. Anche il Bobico c'è il microfono normale, quando mi metti i trox vedrai come cambia la cosa, la musica. In che punto sei Domenico? Qua, non ho preso niente, sono stato adesso al 121. E il segnale com'è più o meno, come sto arrivando? Migliorato o peggiorato? Poi vabbè stasera quando adesso parti e mi dici fino dove arrivo a vedere. Ma te ti sento bene, ma qualche giorno più negativo, non avevo neanche riconosciuto, pensavo era addirittura un amico di Itile, stavo pensando. Questo è Domenico, con la scusa che va sempre nella città dell'amore, non capisce più le modulazioni, gappa gappa. Oh Dio, ma senti una cosa molto, ma molto diversa, che cambia tutta la voce, tutta la sintonia, stavamo parlando fino a quasi alle 3 del mattino insieme, poi adesso me lo trovo con questa modulazione che è proprio a livello di tacchi suola. Ascoltavo bene, senza precisione. situazione è tutto normale, liscio come luglio, capito? L'ascoltavo bene, non è amplificato, non è niente, una radio normalissima. Certo, tu sei abituato a sentire le bombe e giustamente sei rimasto un pochettino perplesso, cappa. Che lo trovi fuori dall'ufficio. sul giornale. Ma io qui c'è una vagonia, o a quell'altro cazzo che guida gli articolati del pulma e piglia la pressione dei cinchi. Quella è una pigliata a piedi il culo, eh. Ed è giusto che li faccio nei controlli, perché c'è molta gente che ha pigliato la pressione per i corsi. E poi sono più sani di te, Pompù. A te non ti vedate che magari c'hai quelle allergie, c'hai quelle cose, e molti lavori non li puoi fare. Però con vedi niente che li date nella pensione e sono più sani di te, giocare pure a palloni. Ehi, io lo so. A Napoli fanno certe cose. Sono tutti pensionati a Napoli. Tutti inutili, che poi sono l'occhio. La povertà è nato l'occhio proprio. Oioia. Faccio gioco un attimo che vado a mangiare, ci siamo fra 10 minuti Mario, ciao che a palchetto, a fa poco allora. Buona carica Pompura, anche io mio è già pronto, mi stanno chiamando, niente, ci sentiamo dopo la carica là. Ci sentiamo, buon proseguo, buon tutto, ce la risentiamo alle prossime se non coincide. Cappa! La buona carica Mario, buon tutto. E tutte le migliori, dai, se coincide più dopo. Anche a Pomponi, buona carica, buon tutto. E prendi Domenico, e allora, alla città delle bombarde. Si è messo un po' a posto, dai. quella che c'è stasera, allucinante, guarda. Alfa.